X24, la storia. Erano le 10.33. L'allarme era stato dato alle 10.30, o un po' dopo. Tutto l'avvenimento spaventoso si era svolto in 2 o al massimo 3 minuti. 25 maggio 1928. Un ripetuto segnale di SOS si espande da un punto imprecisato della banchisa polare. È la disperata richiesta di soccorso dei 9 superstiti dell'incidente accaduto al dirigibile Italia. Per tutto il mondo che ha seguito la vicenda col fiato sospeso, l'Italia è scomparsa nel nulla dalla sera del giorno prima e non ha dato più notizie di sé. Dopo 15 giorni di silenzio, quando le speranze sembrano ormai perdute, un radioamatore sovietico capta finalmente il segnale. Partono immediatamente i soccorsi che vedono impegnate decine di nazioni e più di 3.000 uomini, raggiungendo prima con idrovolanti e poi con uno speciale aeroplano la zona del disastro, la famosa tenda rossa. Sembra tutto risolto con un lieto fine. Il generale Nobile, ferito alle gambe, viene portato in salvo per primo per dirigere i soccorsi degli altri suoi compagni. Ma proprio questo salvataggio, nel giro di pochi giorni, diventerà per Nobile la sua più grande disgrazia. E così quello che doveva essere il suo trionfo si è trasformato nella sua più grande disgrazia, il destino di Umberto Nobile. Lo scienziato, l'esploratore, l'uomo che con il dirigibile negli anni 20 ha compiuto un'impresa eccezionale per l'epoca, quella di raggiungere il Polo Nord. Oggi a MX24 vogliamo raccontarvi la sua storia, che ha come protagonista la tragedia della tenda rossa, una delle pagine più controverse della storia dell'aviazione italiana. Ma intanto, per cominciare, chi era Umberto Nobile? Ce lo descrivono Maria Nobile, figlia dell'aviatore, e Luigi Pascale, ingegnere aeronautico. Non aveva un carattere facile, questo certamente. Però io quello che so, da direttore dello stabilimento, cioè lui era amatissimo dagli operai, da tutte le maestranze, perché lui aveva una personalità, come devo dire, era un po' difficile dire no a mio padre. Era una persona di una rettitudine indiscussa. Non ho mai sentito uscire dalle sue labbra se non parole di estremamente corrette, anche quando casomai si arrabbiava. Aveva questo carattere che era così un pochino serio, anche autoritario, severo, ma poi di animo molto molto sensibile, quasi una gentilezza proprio, una donna a volte potrebbe essere così sensibile, ecco, per tante cose. E quindi c'era questo doppio lato, ecco, della sua personalità. Dunque, un uomo difficile ma carismatico, Umberto Nobile era amato ma anche contestato, un uomo che da subito ha un'unica grande passione, il volo. È lo stesso Nobile, ormai diventato anziano, che racconta come è nato questo suo grande amore in un'intervista raccolta il 20 aprile del 78 dall'attore Brizio Montinaro. Al tempo in cui io ho desiderato di occuparmi di aeronautica, io ero giovanissimo. Avrò avuto 20 o 21 anni. A Napoli, in quegli anni, venne Quinet, l'aviatore francese. Erano i primordi dell'aeronautica. Quando vidi questo fragile apparecchio fatto di tele e di corde volare sulla mia testa, ne fui proprio preso, ne fui commosso. Mi sembrava una grande cosa che un uomo potesse volare come un uccello. L'Italia diventa la seconda potenza dirigibilistica del mondo. Dopo i tedeschi, che con Ferdinand von Zeppelin sono gli inventori, l'Italia è la prima nella costruzione dei dirigibili. In più gli italiani sono gli inventori del dirigibile semirigido, che permette di ovviare alla debolezza di una nave rigida di grandi dimensioni. Ed è proprio negli anni 20, alla fine della guerra mondiale, che Umberto Nobile si impone come direttore dello stabilimento di costruzione dell'aeronautica. Ce lo raccontano Ovidio Ferrante, biografo di Nobile, e la figlia di Umberto, Maria. Nobile era attaccatissimo allo stabilimento e quando finisce la guerra mondiale e inizia in Italia la crisi economica e la recessione, lo stabilimento è l'unico che non ha contraccolpi di questo genere. Mentre tutti quanti chiudevano gli stabilimenti, licenziavano le maestranze, riducevano le linee di montaggio e di costruzione dei velivoli, lui la riesce non solamente a tenere in attivo e avere riscontri all'estero, ma addirittura mette in piedi i nuovi dirigibili nobili che sono per noi i dirigibili di seconda generazione italiana. Si fece subito dei nemici quando i privati volevano acquistare le officine e lo volevano acquistare per 4 soldi. Questa era proprietà dello Stato, non poteva essere un fatto di speculazione privata, era una cosa che lui proprio non concepiva questa qui. E allora lui disse: quanto? Questo disse una cifra. Dice: quello che c'è qui dentro vale 10 volte tanto, se ne esca non si faccia vedere mai più. Credo che lo cacciò via proprio in malo modo. Queste non sono cose che la gente poi ci rimane male, naturalmente. Nobile, insomma, aveva capito che l'aeronautica poteva avere un potenziale strategico enorme. Per lui l'aviazione deve essere un'industria di Stato, ma anche qualchedun altro. Nell'Italia degli anni 20 è consapevole che l'aeronautica avrà un grande sviluppo. Benito Mussolini, appena salito al potere, è deciso di fare dell'aviazione una delle armi vincenti del suo nuovo regime. Continuiamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, la vita di Umberto Nobile, aviatore, esploratore italiano e protagonista della storia che oggi raccontiamo. Siamo nell'Italia degli anni 20, il duce da poco al potere ha deciso di puntare sull'aeronautica e Nobile capisce che nella nuova Italia fascista, per vivere fino in fondo la sua passione del volo, c'è un modo solo: arruolarsi. Il racconto di Ovidio Ferrante, colonnello e biografo di Nobile, e di Gregory Aleggi, storico dell'aviazione. L'aeronautica ha bisogno di ingegneri, ha bisogno di formare i quadri e pertanto bandisce un concorso a 70 posti per ingegneri già ovviamente tali. E Nobile chiaramente concorre e vince il concorso classificandosi secondo e gli vengono dati i gradi di tenente colonnello. Come si disse all'epoca, si trova tenente colonnello senza aver mai fatto il servizio militare. Questa cosa non gli creò particolari simpatie. Davanti a lui c'erano ufficiali di estrazione dell'esercito, della marina, eccetera. Nobile, insomma, è tutt'altro che amato nell'ambiente militare, ma la sua fama lo precede. Nel 24 l'esploratore norvegese Amundsen, che da poco aveva scoperto il Polo Sud, decide di tentare l'avventura al Polo Nord. E per farlo decide che può contare soltanto sull'aiuto di Umberto Nobile. 2 anni dopo questo sogno diventa realtà e nel 1926 ha inizio la grande avventura del dirigibile Norge. A raccontarcelo Ovidio Ferrante, colonnello e biografo di Nobile, e Gregory Aleggi, storico dell'aviazione, ma soprattutto lo stesso Nobile che racconta così. Quando nel 1924 venne in Italia Amundsen, il norvegese, lui non era un tecnico. Era semplicemente un esploratore che aveva scoperto il Polo Sud e voleva arrivare anche al Polo Nord. Questa era tutta la sua ambizione. Ma a lui non premeva come ci si fosse arrivati, purché fosse trasportato lì. Lui pressappoco mi ha considerato come un taxista, uno che possiede un taxi al quale dice «Portami all'opera». E io lo accompagnavo all'opera. Venne in Italia. Gli feci fare un volo su uno di questi miei dirigibili, l'ultimo, quello che poi effettivamente andò al polo. Nel 25 Amundsen tentò di arrivarci con 2 idrovolanti. Questo tentativo fallì. E allora si ricordò che aveva volato su uno dei miei dirigibili e si era persuaso che io potevo farlo. E mi telegrafò dicendo che voleva incontrarsi con me. Io avevo già pronto il progetto e quindi accettai con entusiasmo. Al momento quando praticamente si rende pubblica l'intenzione di Amundsen e di Nobile di questa spedizione di ricerca scientifica e geografica con un dirigibile al Polo Nord, tutti insorgono perché la vedono irrealizzabile, addirittura scrivono a Mussolini, fanno delle petizioni, qualcuno arriva a dire che ci sarà un insuccesso, una catastrofe, che l'Italia farà una pessima figura in campo internazionale. Quando poi, con ripensamento, con la calma, qualcuno comincia a vedere che ci sono i margini per il successo, che da questa impresa ne può derivare ovviamente onore e gloria per chi la compie, allora addirittura molti si propongono come possibili comandanti dell'aeronave. È l'intervento di Amuns che dice: o nobile o nessuno, a convincere Mussolini poi e i vertici della Regia Aeronautica ad affidare il comando a Nobile. L'impresa del Norge è un'impresa norvegese e americana. Norvegese è l'esploratore Amundsen, americano è il finanziatore Ellsworth. Gli italiani forniscono il supporto tecnico, ovvero l'intera aeronave, l'equipaggio e il comandante della nave, cioè Umberto Nobile. È lo stesso Amundsen a stabilire che il volo polare debba essere un sorvolo e non una vera esplorazione per preservare l'autonomia limitata del dirigibile. E annunciai a casa mia, a mia moglie, con un semplice telegramma: siamo arrivati, è come un sogno. Nobile dunque telegrafa alla moglie: per lui avere raggiunto il Polo Nord è come un sogno. Ma in realtà, appena sbarcati in Alaska, cominciano subito le prime voci. Tra Nobile e Amundsen si dice c'è più che una collaborazione, c'è stata una vera guerra. Descrivo nel loro rapporto Gregory Alegi, storico dell'aviazione, e lo storico Luciano Zaini. Ma prima sentiamo lo stesso Umberto Nobile come ci racconta questo episodio. La controversia tra Amundsen e me ha una storia particolare, perché in fondo non ebbi colpa né io né Amundsen, perché ognuno aveva avuto la sua parte e la parte più importante era stata riservata a me. Lui disse: il mio compito era il più semplice di tutti. Dovevo stare affacciato al finestrino e vedere se incontravamo le tracce di un possibile continente artico. Se avessimo incontrato montagne o un continente, sarebbe stato molto meglio. Nessuna polemica sarebbe sorta, ma non trovammo niente. Trovammo solo un mare ghiacciato. La gioia che mi provocò Amundsen quando pubblicò il suo libro con Ellsworth. Disse testualmente: bisogna togliersi il cappello di fronte a questo italiano che ci ha tratti sani e salvi attraverso questa grande avventura. C'è questa competizione per il ruolo di protagonista. Amundsen, oltretutto, lo scriverà dopo l'impresa, ha dei dubbi, esprime delle perplessità sulle capacità di pilotaggio di Nobile. In un particolare racconto fa un parallelo tra come Nobile lo abbia spaventato guidando la macchina e dice: portava il dirigibile allo stesso modo, talché in vari momenti abbiamo avuto paura. Ritorna e viene accolto tra ali di folla in Italia, viene ovviamente accompagnato da Mussolini in alcune di queste cerimonie, viene promosso giovanissimo, a soli 41 anni, generale, cioè nel giro di poco tempo diventa un simbolo in qualche modo dell'eroismo e della capacità italiana. Tutti i regimi tendono ad appropriarsi dei grandi eventi, dei grandi avvenimenti che colpiscono la fantasia popolare. In certa misura accade anche questo con le crociere di Balbo, dove un'aeronautica che ha un quarto dei finanziamenti dell'esercito e la metà della marina sembra essere la pupilla del regime. La stessa cosa vale per le imprese di Nobile: quando vanno bene diventano imprese italiane che sono utili a dimostrare la grandezza d'Italia portata da Mussolini e dal suo governo. Tornato in Italia dunque, Nobile sembra l'astro nascente dell'aviazione. Invece non è così. All'indomani della storica impresa del Nord, infatti, cominciano le polemiche. Il dirigibile è mezzo già vecchio, obsoleto, poco adatto al futuro dell'aviazione. Per Nobile, insomma, l'avventura rischia di finire ancora prima di cominciare. A raccontarcelo Ovidio Ferrante, colonnello e biografo di Nobile. Morto subito il dirigibile come macchina militare, perché troppo vulnerabile, troppo lento, difficile da gestire come macchina civile per trasporto di posta a passeggeri, perché i costi erano rilevantissimi. Nobile invece scopre la terza via del dirigibile, l'impiego per uso scientifico, e questa è la grandezza di Nobile. Quando lui arriva sul polo scopre che questo vettore, i cui costi sono molto contenuti a questo punto, può diventare un vettore scientifico incredibile. Gli anni 20 sono un momento di transizione nel quale l'aeroplano ha un grande potenziale inespresso, mentre il dirigibile è già maturo e può cimentarsi in grandi imprese, come racconta l'ingegnere aeronautico Luigi Pascale e lo storico Gregory Alegi. A quell'epoca il dirigibile aveva in certe particolari missioni ancora la supremazia sull'aeroplano. Aveva più carico utile, aveva maggiore autonomia e soprattutto aveva la facoltà di potersi fermare su un punto. Allora ricordiamo che non vi era ancora l'elicottero. Sicuramente nessun aeroplano nel 26 avrebbe potuto fare ciò che fa il Norge, però basta vedere 2-3 anni avanti, nessun dirigibile può fare quello che fanno gli aeroplani. Ma Nobile ha anche un altro problema. A contendergli il ruolo di prima donna dell'aviazione c'è infatti Italo Balbo, che Mussolini ha appena nominato capo dell'aeronautica. Balbo viene nominato sottosegretario dell'aeronautica nel novembre del 26. Nel giro di qualche mese, anche appoggiandosi a autorevoli collaboratori, giunge alla conclusione che ci sia un eccesso di protagonismo individuale. Così Umberto Nobile. Balbo non sapeva cosa fossero le aeronavi e nemmeno le amava. Lui dichiarò a un giornalista del Corriere della Sera, Tomaselli: «Tu pensi che io sia una persona coraggiosa?» E senza dubbio lo era. «Beh, io ho paura di salire su un dirigibile. Non ci metterei piede a nessun costo». Infatti fu nemico dichiarato perché lui stesso lo disse. Poi aveva paura della mia popolarità. Mussolini propone a Nobile di fare una crociera in Sud America e toccare tutti quanti i paesi e le città dove c'erano grossi insediamenti di italiani che erano andati a lavorare in Argentina, in Brasile e via di seguito. Nobile non era d'accordo, ma forse la paura di Balbo, che già pensava al Sud America, era che questo volo del dirigibile gli potesse in un certo modo bruciargli i tempi, per cui lo vede con di poco di buon occhio. Così nelle parole di Ovidio Ferrante: rivalità, gelosie, protagonismi. La guerra tra Balbo e Nobile si combatte senza esclusione di colpi. Ma Nobile ha un'idea vincente a cui Mussolini non potrà dire di no: tornare al Polo, ma tornarci con una spedizione tutta italiana che porti il nome della patria, l'Italia. Continuiamo il racconto dopo la pubblicità. Mix 24. La storia. Bentornati a Mix24, rieccoci col racconto delle imprese di Umberto Nobile. Siamo in epoca fascista. Italo Balbo è stato nominato capo dell'aeronautica ed è deciso a offuscare in ogni modo la fama del generale Nobile. Ma dopo l'impresa col Norge, per Nobile è giunto il momento di una nuova avventura, questa volta tutta italiana, e che dell'Italia porterà anche il nome. Gregory Alegi, storico dell'aviazione, Ovidio Ferrante, biografo di Nobile, raccontano come quel progetto fu accolto. Poi la stessa voce di Umberto Nobile in un'intervista di Gianni Bisiac del 1960. Sicuramente Mussolini non lesina l'appoggio ufficiale, tant'è che sappiamo che è a Mussolini che si rivolge Nobile per superare il veto di Balbo alla ripetizione dell'impresa polare con un dirigibile che si chiami questa volta Italia anziché Norvegia. Balbo risponde con quella frase che si sintetizza non bis in idem, cioè non ripetere la cosa perché è già andata bene una volta, la seconda non ci aggiungerebbe nessun prestigio ma ci esporrebbe nuovamente ad un rischio elevato di volare, di operare in quelle condizioni polari proibitive. C'era sempre, diciamo, questa latente ostilità. Qualcuno dice che si sia detto: beh, lasciamo andare così, muore sul Polo e ce lo togliamo di mezzo. Fatto è che Nobile però è un uomo convincente, è un uomo che conosce il fatto suo, tanto che la Reale Società Geografica Italiana sposa in pieno l'idea di Nobile per poter mettere in piedi questa spedizione che è costata poi un sacco di soldi all'epoca. Questo volo di 5.500 chilometri dalla Valle Padana fino alla Baia del Re è da considerarsi come uno dei voli più pericolosi compiuti in quel periodo di tempo. Le condizioni atmosferiche nella primavera del 1928 furono in verità molto dure. Di questo io ne fui avvertito quando la spedizione si trovava a Stolp dai meteorologi russi, i quali avevano previsto una pessima primavera, specialmente per la regione polare, e mi sconsigliavano di proseguire nell'impresa. Ritenevano che sarebbe stato opportuno rimandarla, ma era troppo tardi. Noi eravamo in pieno sviluppo del nostro programma e non ci si poteva certamente arrestare. La mattina del 14 maggio 1928, Nobile decide di partire verso est per esplorare la regione della terra di Nicola II. A bordo vi sono 16 persone, tra cui due scienziati, Malmgren e Pontremoli, e il giornalista Cesco Tomaselli del Corriere della Sera. Romagna, il comandante della nave Città di Milano, saluta i partenti con un brindisi. Si riconoscono da sinistra Pontremoli, Mariano, Ceccioni, fra Nobile e Romagna, e Viglieri. Il generale Umberto Nobile riceve le ultime strette di mano prima della partenza. Poi sale a bordo e l'aeronave incomincia a sollevarsi lentamente nell'aria. Sono le ore 13:20 del 14 maggio, quando parte l'ordine «Mollate!». L'Italia si innalza per il primo volo esplorativo. È il 24 maggio del 28, una data storica per il regime perché è l'anniversario dell'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. A mezzanotte il dirigibile Italia sorvola il Polo Nord. E per il generale Nobile sembra un altro trionfo. Invece d'improvviso le condizioni del tempo peggiorano di colpo. Il dirigibile Italia non risponde più ai comandi. Nobile resta aggrappato al timone, ma non c'è più niente da fare. L'afferrai istintivamente tra le mani, con una vaga speranza di poter riuscire a guidare l'aeronave su un tappeto di neve. La vita di ghiacci grandisce sempre più. Un istante dopo, portando la prua dalla cabina di comando, urtando. Erano le 10:33. L'allarme era stato dato alle 10:30, o un po' dopo. Tutto l'avvenimento spaventoso si era svolto in 2 o al massimo 3 minuti. Così Umberto Nobile in un'intervista a Gianni Bisia, che rievoca i drammatici momenti dell'impatto del dirigibile Italia sul PAC del Polo Nord. 9 membri dell'equipaggio si ritrovano feriti ma vivi sulla banchisa polare. Lo stesso Nobile è gravemente ferito alla gamba, per altri 6 invece non c'è più nulla da fare. Il dirigibile Italia infatti, alleggerito del peso, riprende quota e se li porta via per sempre. I superstiti hanno a loro disposizione qualche provvista, una rice trasmittente da cui cominciano subito a inviare richieste di aiuto e naturalmente hanno la famosa tenda rossa. In Italia intanto il nemico di Nobile, Balbo, ignaro di quello che sta avvenendo al Polo, si sta preparando per un'impresa che offuschi la fama del suo rivale. Così Ovidio Ferrante e Gregorio Aleggi e lo stesso Nobile. Mentre Nobile arriva sul Polo, a Orbetello ci sono schierati tutti i 62 idrovolanti della crociera del Mediterraneo occidentale. Perciò gli equipaggi la mattina vengono a sapere che Nobile è passato per la seconda volta sul Polo e ha rilasciato la bandiera italiana, la croce del Papa e via dicendo. Perciò è un momento di festa. E la crociera parte verso la Spagna. Perciò c'era posto tranquillamente per tutti e due. È chiaro che nel momento in cui si interrompono le comunicazioni e scatta questa emergenza dirigibile Italia, i giornali si orientano su questo fatto che galvanizza la popolazione e la crociera di Balbo purtroppo rischia di scivolare un pochettino in seconda linea. E questa cosa ovviamente a Balbo lo indispettisce. Credo che sia eccessivo sostenere che l'Italia, per tramite di Balbo, non abbia voluto partecipare con ogni impegno possibile alle ricerche di aviatori italiani dispersi in condizioni veramente tragiche, difficili, in pericolo più che immediato di vita. Il nostro SOS non veniva intercettato, non veniva ascoltato, nessuno dava segni di vita con noi. E i compagni si persuasero alla fine che il nostro apparecchio trasmittente non avesse una potenzialità sufficiente per giungere fino alla città di Milano. Anche se qualcuno, uno dei due operatori, ha riferito di aver sentito un messaggio, però non viene dato peso a questa segnalazione, tanto che il capo del servizio di trasmissioni sulla radio Città di Milano dice: no, è una nave che sta trasmettendo dalla Somalia e noi l'abbiamo sentita per interferenza. In realtà invece sono i segnali che vengono mandati da Biagi col gruppo dei superstiti. Quando un mese dopo io fui sulla città di Milano, il comandante della nave mi spiegò che loro non prestavano il dovuto ascolto più ai nostri messaggi perché si erano convinti, dopo il nostro silenzio di un giorno o due, che il radiotelegrafista Biagi fosse morto. Io mi dedicavo ai collegamenti radio, qualche volta facevo dei piccoli filmetti che non so poi se si venivano bene o male, perché io non sono stato mai un ottimo fotografo. Mi dedicavo alla caccia sperando di ammazzare qualche foca o qualche anitra, ma ero disarmato, non ci sono mai riuscito. Viglieri era addetto al punto e all'osservazione solare per prendere il punto dove eravamo e per individuare la deriva che facevamo. Beonek faceva le sue osservazioni meteorologiche. L'ingegner Troiani era detto più che altro a affumicare l'orso, più o meno i pezzi d'orso che affumicava con pezzi di legno o benzina, tanto per non morire di fame. E così c'erano i giorni, eravamo monotoni e compagnia bella quando c'era la nebbia e le speranze erano poche, mentre invece quando veniva il sole facevamo un po' il cuore allegro e mangiavamo qualche pezzettino di cioccolato in più. Per i sopravvissuti del dirigibile Italia, i giorni sembrano non passare mai, e del resto la nave appoggio Città di Milano e gli altri soccorritori hanno sospeso ogni ricerca. Secondo loro non c'è più nessuna speranza di ritrovare vivo Nobile e il suo equipaggio. E invece il 3 giugno del 28, dopo 9 giorni dal disastro, un radioamatore russo di Arkhangel capta un SOS della tenda rossa. La macchina dei soccorsi allora si rimette velocemente in moto. Fu un dilettante russo che intercettò una parte del nostro SOS e ne avvertì il governo sovietico. Il governo sovietico ne informò il governo italiano. Poi vennero i soccorsi, che videro mobilitati in molti paesi. L'Italia innanzitutto, con i suoi aeroplani, Compenso e Maddalena. Bisogna dire che tutto il mondo confinante con l'Artide si commosse quando seppe della disgrazia dell'Italia. Tutto il mondo. E tutti fecero quello che poterono per venire in nostro soccorso. Umberto Maddalena, insieme a Stefano Cagna e Francesco Rampini, partono per il nord e saranno proprio loro a ritrovare Umberto Nobile e la tenda rossa. Questa è la nostra tenda. Ci fece dei primi rifornimenti, poi ritornò il giorno 22 insieme con Penso, e allora ci fu una specie di manna dal cielo che pioveva, pacchi di ogni genere, ci fu mandato un barcone pneumatico, ci furono mandate scarpe, ci fu mandato tutti i ben di Dio. Il 19 giugno dunque, dopo 25 giorni, l'incubo per Nobile e per i suoi sembra finito. Finalmente i soccorritori hanno avvistato la tenda rossa e possono cominciare a rifornirli con cibo e con coperte. Ma i soccorsi sono molto, molto difficili e al dramma si aggiunge la tragedia. L'esploratore norvegese Amundsen, di fronte alla catastrofe del dirigibile Italia, mette da parte tutte le rivalità che aveva con Nobile e si imbarca su un idrovolante per cercare di portargli aiuto. Dopo poche ore però il suo aereo scompare nel nulla, di lui non si saprà mai più niente. Poi il 24 giugno dalla Svezia arriva un idrovolante che è munito di pattini ed è quello che ci vuole per atterrare sul ghiaccio. A raccontarlo il pilota Einar Kristel, uno dei membri della spedizione svedese del 28. Il 18 giugno con il Quest giungemmo alla Baia del Re. Immediatamente il nostro capitano Thornberg si recò a conferire col comandante della città di Milano. Il 23 il nostro capo impartì l'ordine a Lundborg e a Schieberg di partire col Fokker e di portare in salvo tutti gli uomini, cominciando dai due feriti, per primo Nobile, a cui presenza ci era necessaria. Lundborg eseguì l'ordine ricevuto, nonostante l'energico rifiuto di Nobile a partire prima degli altri. Il dottor Huben ha detto che il suo dovere era partire per primo perché era necessaria la sua presenza per aiutare a collaborare alla ricerca dei due gruppi dispersi, il gruppo Mariano e Zappi, di cui non si sapeva più nulla, e il gruppo dei sei rimasti sull'aeronave, di cui nemmeno si sapeva nulla. Il sole che poteva dare istruzioni per la ricerca di questi gruppi era Nobile. Quindi il posto di Nobile, quale comandante della spedizione, non era sul PAC, ma era sulla città di Milano. Nobile, dunque, ferito alle gambe, è in salvo sulla nave appoggio città di Milano e subito si scatena una furiosa polemica. Un comandante, si dice, non abbandona mai il suo equipaggio. e questa polemica di fatto accompagnerà Nobile per il resto della sua vita. Ma intanto sulla banchisa sono rimaste 8 persone. 3 di loro, prima dell'arrivo dei soccorsi, hanno cercato di salvarsi a piedi. Gli altri 5 invece sono ancora nella tenda rossa in attesa che i soccorsi russi tornino a prenderli con la nave rompighiaccio Krasin. È il 12 luglio del 28. Dal disastro sono passati 48 giorni. La sera del 12 luglio il Krasin, il rompighiaccio russo, arriva ad una decina di chilometri dalla tenda rossa. Giuseppe Biagi, radiotelegrafista dell'Italia. Beh, all'arrivo del Krasin ci fu un momento di indescrivibile gioia. Noi perché eravamo contenti di essere stati salvati, i russi perché ci avevano salvati. Io, prima di imbarcare la radio, cercai di avere il contatto radio con la città di Milano. E avutolo gli disse: guardate, noi stiamo imbarcando tutti sul Krasin, da questo momento non mi fate più ascolto perché ci siamo ogni contatto, viva l'Italia. Per Umberto Nobile, ancora sofferente per i postumi dell'incidente, le ferite sono molto più profonde. Oltre all'accusa terribile e infamante di aver abbandonato i suoi uomini, adesso Nobile deve affrontare anche l'onta della commissione d'inchiesta. Continuiamo il racconto dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. L'epilogo dell'impresa del dirigibile Italia si è rivelata per il generale Nobile motivo di grande angoscia. A provocare tanta sofferenza è la peggiore delle accuse per un capitano: aver abbandonato la propria nave e il proprio equipaggio. E sui fatti la Norvegia preme per aprire una commissione d'inchiesta. La commissione sentì tutti i superstiti, chiedendo loro di ricostruire l'andamento della missione. Il carattere non facile di Nobile può aver giocato un ruolo nel spingere qualcuno a non perdonare o a leggere in chiave negativa certi fatti avvenuti durante il volo. Qualcuno li lesse, come dire, come anticipazione del disastro e qualcuno invece come fatalità. Al termine di oltre 60 udienze e 6 volumi di lavoro, la Commissione scrive: la Commissione ritiene concordemente che vi è una precisa responsabilità del comandante per errata manovra. In tutta la condotta della spedizione, fino alla catastrofe ed anche dopo, il generale Nobile ha dimostrato di avere limitate qualità tecniche di pilota e negative capacità di comando. È una cosa che mi sta addosso da anni, da persone che non si prendono la cura né di leggere né di fare, e parlo a orecchio soltanto, perché è noioso che mi si sia messo in condizione di dire di queste cose qua, di leggere questi documenti, quando tutti avrebbero avuto già il dovere di leggere. E per finire, vi leggerò ciò che ha scritto un ammiraglio della Marina italiana, l'ammiraglio Vladimiro Pini, il quale dice: anche io avevo creduto a questa fandonia del comando della nave da principio, ma ora che so le circostanze in cui si è svolto l'episodio, devo fare onorevole ammenda. Questo è il senso della lettera. Questo è stato il parere espresso da un ammiraglio della Marina italiana e a me basta. Nobile, insomma, si trova al centro di furiose polemiche. Ma quale fu la sua vera colpa? L'incapacità di comando oppure la presunta vigliaccheria di cui fu accusato? Di sicuro l'insuccesso di Nobile era un'occasione troppo ghiotta per i suoi molti nemici. Ma Mussolini da che parte stava? Sentiamo il racconto di Umberto Nobile e di sua figlia Maria. Mussolini fu fuori da tutto quell'intrigo. Non soltanto perché per sua natura non era un intrigante. Poteva essere un violento semmai, ma un intrigante no. Perché si sapeva che Mussolini mi proteggeva. Mussolini era favorevole a me perché era contento del risultato ottenuto dal Norge. Un successo anche per lui, indirettamente. Per lui ero uno degli uomini nuovi che portava in alto il nome del nostro paese. Quindi Balbo agì in modo che Mussolini non potesse sospettare niente, fino all'ultimo momento. Dopo la spedizione, la seconda, fu ricevuto da Mussolini, no? Il quale lo accolse, come dire, anche affettuosamente, eccetera. Lui era ancora zoppicante perché poi aveva riportato questa frattura alla gamba e al braccio. Mi disse: vedo che zoppica ancora, sono contento di vederla, e mi accompagnò a sedermi alla scrivania. Lui prese posto dall'altro lato e volle che gli raccontassi della spedizione. Lui ascoltò con interesse, poi mi disse: la ringrazio, caro nonno. Se sarà necessario, la rivedrò ancora. E s'alzò e venne nel centro della camera come per salutarmi, congedarsi. Senza volerlo parlai con recisione, come mi capita spesso di fare, purtroppo, mentre parlo. Lo vidi impallidire. Dal mezzo della camera si portò dietro la scrivania, si rimise a sedere sulla sua poltrona, tese la mano verso la destra, un bicchiere d'acqua, versò nell'acqua una qualche medicina e la beve di un sorso. Poi premette il bottone, chiamò l'usciere, accompagnò il generale. Questo fu il mio ultimo colloquio con Mussolini. Dopo di allora non l'ho più visto. Mussolini non farà mai nulla nel corso degli anni 30 a favore di Nobile, se in questo ci fosse stato il rischio di turbare equilibri politici e istituzionali consolidati. E tuttavia non negherà mai a Nobile la possibilità di ricrearsi in qualche misura una vita e un futuro fuori d'Italia. Nonostante l'atteggiamento prudente di Mussolini, Nobile subisce l'onta definitiva. Il generale infatti viene radiato dall'aviazione e umiliato pubblicamente. La sua stella, insomma, sembra destinata a un declino irreversibile. Poi però a Nobile arriva un'altra occasione del tutto imprevedibile. La Russia di Stalin infatti offre a Nobile di diventare il responsabile di tutto il settore dei dirigibili dell'Unione Sovietica. Il regime fascista dà il via libera. Nobile può partire dall'Italia e ricominciare tutto da capo. Sentiamo il ricordo della figlia Maria e la ricostruzione dello storico Luciano Zani. In Russia ci è andato innanzitutto perché aveva un'attività che gli interessava. Poi la Russia per sé era interessantissima come paese, con un'esperienza del tutto nuova. Poi c'era stato già un rapporto molto amichevole con i russi, dopo il salvataggio del rompighiaccio. Quindi... In un governo fascista, in un governo che era praticamente agli antipodi col pensiero comunista o bolscevico, i generali russi se ne andavano da via Gaeta a via Ferrari a trovare Nobile per invitarlo ad andare in Russia a costruire i dirigibili. Perciò questo la dice anche lunga sui veri rapporti fra fascismo e comunismo, fra fascismo e Nobile. C'è una versione per il popolo, per la stampa, e poi invece c'è tutta una versione parallela, segreta, coperta, che poi è quella reale. Il successo maggiore è la costruzione del V6, che è un dirigibile che batte il record mondiale di durata in volo ed è in un certo senso l'eredità che Nobile lascia ai sovietici, perché oramai nel 1936 si è deteriorato in qualche modo il suo rapporto con i sovietici e quindi matura la decisione di tornare in Italia. Quando oramai non è più in Unione Sovietica, il suo ultimo dirigibile, appunto il V6, durante un volo si schianta a terra nella nebbia e in un certo senso qui si chiude la vicenda della dirigibilistica sovietica da lui costruita. Così come è accaduto per l'Hindenburg, l'altro famoso dirigibile che si era incendiato nel 1937, anche il V6, progettato da Nobile in Russia e che ha battuto il record mondiale di durata, si schianta al suolo. È il 1938. L'ennesima catastrofe mette fine per sempre all'era del dirigibile. Per Nobile non c'è altro da fare che tornare all'insegnamento universitario, ma il suo nome sembra essere sempre accompagnato da polemiche. Umberto Nobile morirà nel 1978 a 93 anni. La sua avventura al Polo Nord, però, è ancora oggi un enigma e la sua vita una storia che abbiamo cercato di raccontare. Generale Basilio De Martino dell'Aeronautica Militare Italiana, qual è stata la grandezza di Umberto Nobile? La grandezza della figura di Umberto Nobile è quella di un ingegnere che è riuscito, innestandosi in un filone già esistente, a portare un prodotto della tecnologia italiana ai massimi livelli di eccellenza. Si può poi discutere se questo prodotto, che era il dirigibile semirigido di scuola italiana, fosse effettivamente ciò che poteva servire al mondo aeronautico in quel momento, ma è indubbio che i dirigibili semirigidi italiani hanno segnato la storia delle aeronavi. Ma quella del dirigibile però era una strada forse già impossibile da percorrere o comunque al tramonto, giusto? E qui arriviamo all'altro aspetto. È vero, il dirigibile negli anni 20 si stava avviando al tramonto, perché era un mezzo molto complesso da gestire, molto sensibile agli elementi atmosferici, e la tragedia del dirigibile Italia ne è la conferma, ed anche perché tutto sommato cominciava a perdere il duello con l'aeroplano in termini di autonomia e capacità di carico. Ma Nobile ha ancora l'idea che il dirigibile possa servire a qualcosa di specifico, le esplorazioni delle grandi aree sconosciute, quelle polari. Ma quindi lui era anche uno scienziato, si può dire? Certamente sì. Nobile, anzi, più che un militare, era un ingegnere e uno scienziato, più ingegnere che scienziato. Aveva una storia personale che lo collocava un po' al di fuori di quelli che erano i canoni tipici del profilo di carriera di un ufficiale. Non aveva fatto la guerra e per un uomo della sua generazione questa era, tra virgolette, una pecca. Aveva anche l'abitudine, e glielo consentiva la sua popolarità come ingegnere e come esploratore, di muoversi un po' di fuori dell'ambito della gerarchia. E tutto questo poi viene esaltato in termini negativi dal famoso episodio della tenda rossa, quando viene salvato per primo. Ma qual è l'eredità oggi di Umberto Nobile? L'eredità di Umberto Nobile, se guardiamo a quella che è la storia dell'aeronautica militare, è nell'attenzione che la Forza Armata ha e ha sempre avuto per la tecnologia. L'aeronautica è una Forza Armata tecnologica per definizione, ed anche nell'attenzione che la stessa Forza Armata pone agli argomenti della ricerca scientifica, all'epoca il volo portato in condizioni estreme. Oggi il volo spaziale, e in particolare il volo spaziale umano nel caso dell'aeronautica militare. Grazie mille, generale. Grazie a voi. Tutte le puntate di Mix 24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. We'll be right back.